non ci sei. Sì, si accende, ma lui gliel'ha presa prima di finire il tutto, quindi ed era fatta a metà, gliel'ha voluta prendere prima, fa giù un barello. Accende, tutto qua, il microfono deve avere per provarlo. Sì, ma adesso l'ha aggiustato, gli ha cambiato pezzi, gli ha messo il filo esterno per l'alimentazione, tutto. Ma mancava da cambiare un pezzo, non l'aveva lasciato e se l'ha voluto portare via lo stesso, capito? Perché non l'ha voluto lasciare più tanto, non lo so perché. Io gli avrei fatto finire. Io sto contattando con uno, ma saranno 80 euro. Sì, infatti devo fare il bonifico domani stesso. Faccio il bonifico, me lo compro. Devo applicarmi su lui. Beh, buonanotte a tutti. Io me ne so grandente, non entra nessuno. Shop. Attenzione canale 10, chi è questo qua? Avanti su 10. Attention Germany, do you copy Italy, USL. Sono un FM però qui. Riccardi. Ciao. Sta a parlare. Cava. Sono canale 10, provi di trasmissione. Roba di segnale, Holland questo è. Cosa non ho capito, vabbè. Forse è olandese, Holland ho sentito, molto forte, 9 più 10 arriva. Sì, l'ho visto, comunque come sta andando canale 10, prova di trasmissione? Sì, ottima, ti sto dicendo, sta uscendo benissimo. Allora, una cosa, adesso non se li mangi il cane le istruzioni del coso, del K. Ma secondo te non sarei al primo piano il cane? E com'è che sono tutte pasticciate? Com'è che sono pasticciate le istruzioni? Le istruzioni sono pasticciate. Boh, me l'hanno date così a me. Ah, hai comprato l'apparecchio. Dai, ti ascolto bene Riccardi, guardami il segnale tu con quel baracchino. Guarda, il passaggio che stavo guardando lo smettere e hai appena finito il passaggio. 1, 2, 3, prova, radio. Hola, hola. Stai arrivando a 9.30 con picchi positivi. Addirittura 9.30 arrivo. Sì, 9.30. Quello, lo sai che vabbè che siamo vicini, quello che arriva più forte. Scusa. Tonino che mi arriva quasi. Mi arriva attaccato 9.60. Davvero, tu non pensavo arrivasse così forte. Perché siamo vicini, staccato mi arriva più o meno 9.40. Vabbè, non è che siete vicini a me. Se consideri la distanza, il più vicino per te è Luca. No, il più vicino forse Gianni. Allora, Gianni è, non lo so, fammi vedere. No, è più vicino, molto più vicino Luca. Gianni è giù verso lo stadio dei Pini. Lo so, e Luca. Luca è ancora più lontano. Luca è vicino alla chiesa, ami, la chiesa di Via Grazia d'Aleda, quella zona lì lui. Ma non è dove ci sono le casette in Canada? È vicino alla chiesa. Ah, è vero che lì è vicino, sì. Fai fare due conti. Pensandoci bene. No, hai ragione, è più vicino a Luca, è più vicino a Luca. E che ti arriva più forte tra Gianni e Luca? Forse mi arriva più forte Luca. Luca, per me di tutti i segnali che ho io qua, senza considerare quelli vicini, è il più forte di tutti. Beh, ti lascio che vado a fare carica veloce, così mi libero. Non so se rimango troppo però Riccardi, dai, mangia con calma perché non lo so se rimango troppo, dai io rimango qualche minutino poi vediamo. Allora, spero di sentirti più tardi, comunque se non ci sei ci sentiamo domani, buona carica a te, vabbè avrei già cenato, mi hai detto, e dai, spero di sentirti più tardi. Ok, dai, se ci sei ci sentiamo, dai, ok, ciao, buona carica, buon tutto. Ripeto, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi è che batte i colpi di porta avanti? Io sei che orecchio, tu sei Tonino. Capa, sempre io. E tu sei Riccardino. Positivo, positivo. Cioè, ormai non c'è più nessuno che entra la sera. Prima c'erano dei bei questioni, non c'è più nessuno. Perché sembra come le femminucce, se ne vanno subito a letto. Ah, sono vecchi, sono troppo vecchi. Perché te... E me, cosa hai fatto di bello oggi, Riccardino? Cosa ho fatto di bello oggi? Sono andato da babbo in ufficio perché dovevo passare un attimo da Robertino e mi ha chiesto la roba e niente, quindi alla fine doveva fare il turno perché lui fa il turno il martedì e il giovedì e quindi siamo rimasti fino alle 5 e mezza lì in ufficio senza fare niente, guardando subito e niente, poi quando siamo usciti, stavo sistemando, mi sono fatto il bagno in piscina e poi sono entrato in radio, però c'era poca gente. Sta ancora lavorando tuo padre, sì? Sì, proprio fa una settimana sì, una settimana no, perché si alterna con il collega. A che lavoro sta facendo adesso? Adesso lavora toponomastica. Toponomastica, cioè? Numeri civici, cambi di residenza, queste cose. Comune? Sì, sempre comune. E accanto a dove lavorava prima, dove lavorava come vigile è attaccato lì alla caserma, più o meno. Capito. Andrà bene. E io ancora ne ho 18 giorni fini. Ancora 6 giorni alla pensione? No, magari, capito. Si entra a lavorare. Sì, ho capito. E anche i genitori, meno male, fra un po' vanno in ferie, così non c'è problema di stare ogni volta che dobbiamo alzarci presto, no? Non c'ho gana, non c'ho sbatti, voglio dormire fino alle 10, perché prima mi alzavo quando andavo a scuola presto, invece adesso che non c'era niente da fare mi alzavo tardi, però visto che loro hanno ricominciato a lavorare, devo alzarmi presto. Io 19 rientriamo, 19 luglio, andrà bene, come possiamo fare? E poi, ma te ne faccio chi dovrei entrare il 19 luglio? Poi presento le figlie. Non ho capito, Tony. E rientro 19, sono da maggio, tutto giugno, 19 luglio rientro. Come rientro poi ti chiedo le figlie. E fai bene. No, dai. Io ho fatto la muffa in casa, basta, dietro lavorare, non mi frega niente. Non servo le figlie, me ne andrò più là. Non mangio gana, sto sempre in casa. Ma se andiamo tutti a pescare, Tony? Quello, senza fare dubbio. Ma io lavoro da lunedì al venerdì, luglio e agosto, quindi, mentre poi da settembre continuo dal lunedì al sabato e la sera sono, io lavoro solo mattina e basta, dalle 7.30 alle 14.10 e poi sono tutta la sera libero. Ho capito. E ci vuole un bel gelato. Andiamo tutti il gelato? Io ancora non ho preso perché stavo aspettando un attimo di girare queste verdure che abbiamo mangiato, deliziose. Chi è che vuole entrare? Mia cicomino, mi. Ciao Manuele, avanti il casino. Ciao Manuele, ma forse è solo colpa mia se ti sento basso. C'hai quel tubo di bazooka che ogni volta che passo quelle zone vedo questo tubo nero a fare un baracco. Manuele, mica almeno vai dall'amico tuo, anche se è tardi, almeno ti fai sentire bene. Ti ascolto meglio forse. E tipo di propagazione a momenti ti copre, però già ti capisco. Perché quando parli tu devo alzare al massimo, poi quando entra il tonino stacca super tutta Frigheddu. Manuel, abbassando le refini ti porto a Santiago 3, mentre quando entra Riccardino Santiago 9, guarda che differenza che c'è con quell'addrino che hai. Sei troppo pio pio, fuori di Adenna Manna. Perché? Come c'è questo microfono così feo? E cioè? Perché non usi Galaxy? Fai TY. E beh, scusa, se per arrivare a chi no, la televisione non te ne frega niente. Cosa stai guardando? Tu sì che vale. Sì. Ma come fai tu a capire guardando la TV e guardando Baracchino? Avanti a ricordare. Non è che tu sì che vale, ma non so questi programmi, più strani, boh. Non ne guardo di questa roba tre. Io guardo tutto, mi piace molto su Di Max quando c'è la pesca del tonno, troppo bello, ragazzi. Di Max è già un'altra cosa, anche io me lo guardo Di Max, però queste cose tipo di questi programmi strani non ne guardo, Di Max lo guardo volentieri. Allora guardi anche il banco dei pugni. Mio figlio poteva morire. Non lo vedi quello, il banco dei pugni? Che cosa? Il banco dei pugni. Che cosa? Sì che lo guardi. Che c'è l'ex che roba che vende, compra secondo mano, vende eccetera eccetera, che poi ci vanno quei nigri, provano a portare qualcosa a vendere che non vale niente, tu mi devi dare $600, dice, ma questo non vale niente, zero nulla, e poi lei insiste, tu mi devi dare i miei $600, a me va a dire di... Lo so che è sempre così, comunque secondo me se fughi lì qualche radio già la trovi. Dove? Al banco dei pugni. Ah, beh, ma che cosa ci sarà? Presumo, a Detroit, Manuel. Ma dico un po', che fine avevi fatto? Che fine avevi fatto? Non stavi più entrando. Non ti ho più sentito. Quando volte con Riccardino siamo da soli nel canale che? Noi siamo quelli notturni, Tony. Siamo i più forti. Eia. Manuel, ma tu ci vieni a pescare? Io posso che non fare il compagno. E cosa ci vuole? C'era un tipo che, allora quando lavoravo all'ispettorato del lavoro, facevo l'usciere, mezzo carabinieri eccetera, c'era questo tipo che voleva venire a pescare con noi, vieni, sono stato con un carabiniere, anzi con due carabinieri a pescare, si compra una cannetta, ha messo la lenza, come l'ha messa non lo so, il pivolaccio che ha fatto vroom, la parrucca del muliero, tutti i denti, alla fine ha aspettato la canapa, ma cos'è combinato, ma basta, guarda, infatti non ha pescato niente. Poi c'era questo carabiniere che si metteva con le mani per terra, i piedi in alto, ma si muove a camminare, ma tu si vede. No, divertimento, guarda, andavo spesso a pescare con loro. Poi c'è andato in pensione, Trundaglio e risicato siciliano, non so che fine abbia fatto. Poi ho cambiato lavoro e quindi mi ha fatto solo un paio di anni là. Guarda, sono sincero, non l'ho provata. Dovrei staccare l'antenna, attaccarlo al commutatore dell'antenna perché ho tre baracchini attaccati. E dovrei provarla, se funziona. Ora c'ho un microfono, come faccio a provarlo? Ma non ti ricordi più, ma sei pronto del marachino con lo vuoi al tuo che non funzionava in ricezione? E perché ti ho chiesto il microfono a te molto presto, poi te l'ho tornato. Perché questo è senza microfono, tu non me l'hai mai dato. No, mai dato uno a farmelo, poi quello 5 punte. Anzi 6 punte, no. E io ce l'ho tutte quelle a 4. E a te cosa ti è rimasto in baracchina? Cioè quello Albrecht. Come cavolo si chiama? Albrecht. Blu ai 8000. Come si chiama quello che mata a me il gemello? Quello è Multico, non lo leggo io qua. Qua c'è scritto AL Break e poi AE 8000. No. Riccardi, tu lo conosci? No, ho sentito che stavo chiamando i miei che stavano chiudendo tutto, pensavano che ero dentro casa e stavano chiudendo e li ho avvisati. Non ho capito tutto il discorso, Tony. Che c'è un baracchino Emanuele che io non lo conosco. E che baracchino è Emanuele? Cosa ha detto bene? Fammelo cercare, Tony. 493 ho capito solo. 497 Multicom. Sì che lo conosco. Wellintech Multicom 497, la stazione base, lo conosco. Allora, e ce lo cerco io. Ehi, Tony, mica è quello che si assomiglia al tuo che hai dato a Fabio. Tipo quello lì, ma è uguale a quello che mi ha fatto a me, cico mio. Solo per questo sarebbe andato a tirare. Ah, ma è uguale, scusa, ma è dell'Inter che è pur. Com'è questo che chiamano il tuo nome? Ah, quindi quando mette la bandiera a tirare si chiama il tuo nome. Andare. Comunque, visto che tu sei Pinocchio, ma a me non mi butti. Perché tu che l'avevi venduto a 180 euro, ma ci sarai ancora. Guarda, se vuoi fare un affare, facciamo scambio e ti posso dare il Midland, il modello 78574, quello bello. Yes. Tutte le manopole nuove. Vabbè, allora, te è dovuto diventare quello mio. Avanti, Riccardo. Aspetta che vado avanti, me lo stavo riguardando. Sì, comunque, è uguale al tuo, solo che cambia la marca, quello che ha fatto a riparare a Fabio. Infatti è diverso. È uguale come sintica, frequenzimetro, tutto due smitter, rosmetro, battimetro, e bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Per curiosità, com'è che si chiamava il Midland 78? 78-574. Guarda che c'ha 40 canali SSB, eh. Aspetta che lo guardo, ti do un giudizio. È bellino, eh. Guarda, allora io non posso attaccare il condizionatore perché devi venire poi a controllarlo perché mi cade acqua. E va a finire sulla stazione, mi rompe le palle. Niente. Io dovevo andare stasera a comprarmi un ventilatore e invece tra una cosa e l'altra a fare commissioni, ma fottito, boh, sono arrivato da 8 e mezza a casa e non avevo più gana, domani me lo compro. Ehi, ha trovato Riccardi? Torino, lì che ti do un voto al Midland. Un voto? Dimmi che voto mi dai. Ti do un 10 su 10. Bravissimo, grazie. Ma guarda, non dicevo a me, io faccio la foto, guarda che cambia, te la mando direttamente. E faccio prima. Allora. la musica sopra YouTube, Amazon. Ok, ho fatto la foto. L'ho detto tagliato. Adesso. L'ho detto a modo mio, io mi sono chiamato. Ok. Però adesso sono qui. Saccade. Quindi quattro niente. Saccade. Quattro. Adesso te la mandiamo. Germania, vediamo dove sei, dove sei. Bla bla bla bla bla. Ecco qua. Ecco qua. Te lo sto inviando. Peccati. Te l'ho inviato. Guarda un po'. Positivo, mi è arrivato adesso. Aspetta che la apro. Sta caricando. Scappa. Pino, quindi dici che Emanuele è il naso lungo? Pinocchione. Questo che cosa stai usando, se puoi dirlo? Un Galaxy. Ah, va, il Galaxy è burnego. Pino, che cosa volevi scambiarlo con Emanuele, quel questo baracco? È quello che c'è lui, che mi ha dato a me, che è sordo. Aspetta che dica, che ti mando alla mia station Wego. Dunque, l'ho fatta qui, saccade. La mia piccola stazione si sta mandando il cardì. E questo l'ho fatto in tempo di un mesetto circa. Dimmi come va. Il numero l'ho già fatto io, l'ho inviata. La sto guardando adesso. Un attimo, ti mando anche una foto della mia station. Vabbè, della mia station, una parte. Ti mando l'apparecchio che sto usando. Se vedi bene, qua sto modulando io praticamente. Gli smitter hanno la lampadina azzurrina. La Rue. Le finestre aperte dai, almeno. Le finestre. Non è il condizionatore, è il ventilatore. Aia, vedi Manuel, altri ci voleva un bel ventilatore che hai qui giganti. E mica sei così facile tu, ma domani con un pareggio mezzo deccia, zitta. La mazza. Se tu sei magrolino io sono invisibile. Anche io sono magrolino, mi chiamo più, ma... Ebbene, capì. Ho mandato la foto. Ecco qua. Ui, ui, ui. C'è dietro la tatura, eh? Un pochino già c'è, ma come dire, è solo una parte. L'altra è tutta dentro. Io invece l'altro, l'MP5 ce l'ho incastrato a fianco al Midland. Non so se la foto si vede, ma... L'hai visto il movie dove c'ho il baracchino io? Ce l'hai come il mio? Sì, ce l'ho uguale al tuo. Meglio. Uguale identico. Già va bene, dai. Sì, ahi. Ed Emanuele, adesso cosa sta usando anche lui, il Galaxy? Che marchio stai usando, Manuel? Ah, quello ho capito. Com'è fatti vuoi, Gabu? Pino, per dirti, comunque, oh, che strani che sono, forse sono anche un po' bruttini, vabbè, sono gusti. Sopra quello che sembra l'Impec c'è quell'Elbex, quello con i tasti che cambi canale. Ma quale stai dicendo? Dei miei? Sì, guardando la foto, sopra... cosa ti posso dire? Praticamente sopra l'Albatec alla sinistra si vede l'Elbex, quello è un po' bruttino, vabbè, sono gusti. No, io ho il Connex sopra il Midland, il 4000. Poi se tu mi dici a destra ho il ricevitore Bada Marina, ho un altro 4 ricevitore da 0, 2 giga, poi c'è un baracchino che non so neanche se funziona, piccolino piccolino, con i tastini, fa caldai. E poi sotto c'è quello che ho dato a cosa, a Fabio. Io ti sto dicendo quello con i tastini, è brutto. Ah, ma quello è ben vecchio, me. Quello è praticamente l'Intec M4035S. Ho capito, quello che ha la freccetta, rosse, su, verso giù, Esatto, quello è uno dei piccolini, molto vecchio, come baracchino. Ho capito, vabbè, bellino, c'è il Galaxy, poi c'è il Conex, il Midland, l'unico che mi piace forse è quello, e poi è, che tra mio, quello è, cos'è, un HF, VHF, quello sopra. Caffa, quello è Banda Marina, 5501. Emanuele, tu non l'hai visto? Aspetti, vado la foto anche a te, Emanuele. Eia, te la mando la foto a 5000. Aspetta, fatti cercare. Sì, tu pensa che io mando la buonanotte a Roma 25 donne, dico che il cracco qua dove ti ho messo. Sulla destra, sopra quello che tu mi hai dato, sullo a fianco. Torino. Dimmi tutto. Dai, io devo staccare, che sennò mi chiedono fuori a casa, perché domani e mercoledì lo stesso, devo stare presto. E cosa devi fare così presto? Perché babbo deve andare a lavorare verso le 7:30, quindi mi sveglio anche prima, e perché poi deve venire il suo collega, praticamente lui ha fatto un sacco di roba e ha un apparato CB piccolino, un portatile, e che gli dobbiamo mettere i quarzi, perché si fa vedere che ne sa molto, però se neanche togliere e mettere un quarzo di quelli con la graffetta. Capito. Comunque, ti è piaciuto Riccardo il mobile che mi sono fatto io grande per i baracchini? Sì, bello, ma lo stavo guardando, un truzzolare. Cappa, è tipo multistratto, è grosso, quasi da 2,5 cm, è alto 1,20 m per 90 cm di profondità 30. Ho capito, dai, ci sentiamo domani, buon 144 a tutti, ciao Torino, ciao Emanuele, e anche tutti gli altri eventuali in ascolto, io chiudo. Ok, d'accordo, ciao Riccardo, grazie alla compagnia, buon 144 e buona giornata per domani, stammi bene, avanti Emanuele. Come ci sta arrivando al tema, Roe? Segnale. Aspetta, adesso. E adesso com'è? Sembra fatto scarabù. E sì, lo aspetto, dai. Ne vale la pena. Ci sentiamo, siamo vicini, che. Che tu non sei male, eh? Non sei male, tu. Sì, sul 3 di 9:30. E poi tra l'altro c'è la voce più forte con l'altro, la radio è migliore. Non ho capito, come non c'è Gianni. Gianni doppio non l'ho sentito. Si sarà addormentato. Che carino che è. quello piccolo piccolo che c'ho. K ha già modificato, è carino, eh. Beh, è perché non ci sentiamo, invece ci sentiamo da qua. Aspetta, che allora tutto male pure. Ecco, io sono sul 7. E buonanotte, 144. 144 è il radioattore. Io c'ho il display proprio. C'è scritto PMR7. Eia, mi senti? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ma beh, non si può pretendere un'antennina di gomma piccolina, guarda. No, è carina comunque, eh. E qui ce l'hai anche tu, ce l'hai. Io ne ho un altro senza frequentimetro, ne ho comprato un altro, ne ho due. E qua c'è un luogo nuovo, mai l'ho operato, io mi rometto viso, non mi posso, ma sono operato 19 io, ma questo non so, questo è sì, ma Fed, no? Sì, questo è un nuovo frequenzimetro, questo mi ha dato leoncino, me l'ha dato 20 euro e K, però lo compro così mai che lo vuoi mai nessuno. Io dopo mangio un gelato, adesso mangio una gana, vabbè, che cosa voleva. Adesso la Fiat 600. Ho la Fiat 600. Vabbè, l'amica mia me l'ha data. Consuma poco, adesso mi serve solo il targa. Non mi dispiace perché la Ford camminava ancora, ragazzi, e cammino, ho messo in moto stamattina. Sì, ma noi a me spenderà per 500-600 euro per aggiustarla e poi si faccia una cosa, non mi conviene più. Caffa. E quindi tu c'è una persona che me la porta via da qua. Cioè praticamente devo pagare io 30 euro. Cioè, ma noi... Se ti vuoi girare i conti, allora, innanzitutto le caratteristiche non te l'accetta se non hai versato le tasse. Io te lo dico, lui se lo può vendere anche a pizzimi, e sai quanti soldi ci guadagna. Guarda, per tenere testa al toro, io la metto su Facebook per pezzi di ricambio, è ancora funzionante, 200-300 euro e me ne incasso subito. Gomme buone, cerchioni buoni, i vetri buoni, fari buoni, c'è tutto, sedili, e cosa vuoi dire? È la macchina a posto, cioè, ci stavo marciando io fino all'altro giorno, fino a sabato. Ma non so come si fa. Non l'ho mai fatto. Quindi allora vado prima sul gruppo, praticamente, cosa vendo, metto auto usata e poi mi dice di andare a mettere la foto, giusto? Grappa. chi è che vuole entrare? Perché Emanuele mi arriva a fondo scala, chi è? Sentivo uno pio pio, chi è? Niente, forse preparazione. Sente più niente casino grande. Però ti sentivo sotto fondo un piccolo suono. Ecco perché ho detto chi vuole entrare. No, ma è come se è entrato poco fa. Però non è una delle migliori come ci avevi prima tu. Sì. È presto. Io ci sono che cazzo che frega. Sono le mutande, ma un cazzo che... Le mani sono mutande in campagna, non che buca curi. E io ho voglia. Cetari ci sono. Oh, yeah, yeah. E poi non sa mai che mi vede quella lì con la picchiettiola in mano. No, ho bisogno di due cani, c'è Aiu e l'altro, come si chiama, che sono sempre in giro i roghi. Se mi vedete, ti manco manco, Manca la pesca, insomma. Io vado a prendere una da lancio, 4,50. Ma quella che c'è sono piccolina. Dica la pesca. Per andare a pescare. Devi prendere anche la pesca per fare la tenda, ma così cazzo si intende. Tipo di polo. Però si fa col capo elettrico. Non lo saci, perché come fate a fare la calzamaglia da una parte e il polo caldo dall'altra? Io faccio questa antenna cicotale, guarda, sono lì tranquillo. Adesso la posso, me l'ho piazzata, non ho fatto io la CBC. È leggera la giovane pesante da novembre. Forse che te adesso l'ha matto con uno, l'ha matto con una 50 vedotta, ha matto le 5 forse due bacche, perché c'è anche la bella posizione la tua. Sì, ma non è come mai una 50 antenna già fatta, cioè già della fabbrica, capito? È una autocostruita, ma non è. Non lo saci. Cosa puoi trovare? Dove? Che cosa? Autometri. Mi, che è una così, di autometri, l'ho vista a Pomponio. Dice, te la dà. Ehi, c'è la carapesca lunga, e non è che te la cosa? Ma tu qua a Mondiere non le puoi mettere, perché se lo sai, è una, puoi mettere un galleggiante mentre la fissa batta. Un bel longa, chiedilo, se non se ne fa niente te la fai dare. Ah, no, non è di quelli lì, tranquillo. Ho capito quale stai dicendo, no.